Giornata seconda, parte ventesima di Dialogo dei Massimi Sistemi. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Dialogo dei Massimi Sistemi di Galileo Galilei. Giornata seconda, parte ventesima. Salviati. Dite voi sul saldo o pur parlate ironicamente? Simplicio. Io dico dal miglior senno ch'io m'abbia. Salviati. Bisogna dunque che voi vi sentiate d'aver tanto buono in mano da poter anco sostenere la difesa di questo filosofo contro qualche altra replica che gli fosse fatta in contrario. Però rispondetemi, vi prego, in sua grazia, giacché non possiamo averlo presente. Voi primieramente ammettete per vero che la natura abbia fatti gli articoli, le flessure e snodature agli animali a ciò che si possano muover di molti e diversi movimenti. Ed io vi nego questa proposizione e dico che le flessioni sono fatte a ciò che l'animale possa muovere una o più delle sue parti, restando immobile il resto. E dico che quanto alle specie e differenze dei movimenti, quelli sono di una sola, cioè tutti circolari. E per questo voi vedete tutti i capi degli ossi mobili esser colmi o cavi. E di questi altri sono sferici, che sono quelli che hanno a muoversi per tutti i versi, come fa nella snodatura della spalla il braccio dell'alfiere nel maneggiar l'insegna, e dello strozziere nel richiamar con logoro il falcone, e tal è la flessura del gomito, sopra la quale si gira la mano nel forar col succhiello. Altri sono circolari per un sol verso e quasi cilindrici, che servono per le membra che si piegano in un sol modo, come le parti delle dita l'una sopra l'altra, eccetera. Ma senza più particolari incontri, un solo general discorso ne può far conoscere questa verità. E questo è che di un corpo solido che si muova, restando uno dei suoi estremi senza mutar luogo, il moto non può essere se non circolare. E perché nel muover l'animale uno delle sue membra non lo separa dall'altro suo conterminale, adunque tal moto è circolare di necessità. Simplicio. Io non l'intendo per questo verso. Anzi, veggo io l'animale muoversi di 100 moti non circolari e diversissimi tra loro, e correre, e saltare, e salire, e scendere, e nuotare, e molti altri. Salviati. Sta bene, ma cotesti sono moti secondari, dipendenti dai primi, che sono degli articoli e delle flessure. Al piegar delle gambe alle ginocchia e delle cosce ai fianchi, che sono moti circolari delle parti, ne viene in conseguenza il salto o il corso, che sono movimenti di tutto il corpo, e questi possono essere non circolari. Ora, perché del globo terrestre non si ha da muovere una parte sopra un'altra immobile, ma il movimento deve essere di tutto il corpo, non ci è bisogno di flessure. Simplicio. Questo, dirà la parte, potrebbe essere quando il moto fosse un solo, ma l'essere tre e diversissime tra di loro non è possibile che s'accomodino in un corpo inarticolato. Salviati. Cotesta credo veramente che sarebbe la risposta del filosofo, contro alla quale io insurgo per un'altra banda, e vi domando se voi stimate che per via di articoli e flessure si potesse adattare il globo terrestre alla partecipazione di 3 moti circolari diversi. Voi non rispondete? Già che voi tacete, risponderò io per il filosofo, il quale assolutamente direbbe di sì, perché altrimenti sarebbe stato superfluo e fuori del caso il metter in considerazione che la natura fa le flessioni a ciò che il mobile possa muoversi di moti differenti, e che però, non avendo il globo terrestre flessure, non può aver i 3 moti attribuitili, perché quando egli avesse stimato che neanche per via di flessure si potesse render atto a tali movimenti, avrebbe liberamente pronunziato il globo non poter muoversi di 3 moti. Ora, stante questo, io prego voi e per voi, se fosse possibile, il filosofo, autor dell'argomento, ad essermi cortese di insegnarmi in qual maniera bisognerebbe accomodare le flessure a ciò che i 3 moti comodamente potessero esercitarsi. E vi concedo tempo per la risposta 4 e anche 6 mesi. Intanto, a me pare che un principio solo possa cagionar nel globo terrestre più moti, in quella guisa appunto, come dianzi risposi, che un sol principio, col mezzo di vari strumenti, produce moti multiplici e diversi nell'animale. E quanto all'articolazione, non ve n'è bisogno, dovendo essere movimenti del tutto e non di alcune parti. E perché hanno ad essere circolari? La semplice figura sferica è la più bella articolazione che domandar si possa. Simplicio. Al più che vi si dovesse concedere, sarebbe che ciò potesse accadere d'un movimento solo, ma di 3 diversi, al parer mio e dell'autore, non è possibile, come egli pur continuando e corroborando l'istanza segue scrivendo. Figuriamoci col Copernico che la Terra si muova per propria facoltà e da principio intrinseco da occidente in oriente nel piano dell'eclittica, ed oltre a ciò che ella si rivolga pur da principio intrinseco intorno al suo proprio centro da oriente in occidente. E per il terzo moto, ch'ella per propria inclinazione si pieghi da settentrione in austro e dall'incontro. Essendo ella un corpo continuo e non collegato con flessioni e giunture, potrà mai la nostra stimativa e il nostro giudizio comprendere che un medesimo principio naturale e indistinto, cioè che una medesima propensione si distragga insieme in diversi moti e quasi contrari. Io non posso credere che alcuno sia per dir tal cosa, se non chi a dritto e a torto avesse preso a sostenere questa posizione. Salviati, fermate un poco e trovatemi questo luogo nel libro. Mostrate. Fingamus modo cum Copernico, terram aliqua sua vi et ab indito principio impelli ab occasu ad ortum in ecliptice plano. Tum rursus revolvi ab indito etiam principio circa suim et centrum ab ortu in occasum. Tertio deflecti rursus su obtenutu a septentrione in austrum et vicissim. Io dubitavo, signor Simplicio, che voi non aveste preso errore nel riferirci le parole dell'autore, ma veggo che egli stesso, e purtroppo gravemente, si inganna. E con mio dispiacere comprendo che si è posto ad impugnare una posizione la qual e non ha ben capita. Imperò che questi non sono i movimenti che il Copernico attribuisce alla Terra. E d'onde cava egli che il Copernico faccia il moto anno per l'eclittica, contrario al moto circa il proprio centro? Bisogna che non abbia letto il suo libro, che in 100 luoghi ed anche nei primi capitoli scrive tali movimenti esser amendue verso le medesime parti, cioè da occidente verso oriente. Ma senza sentirlo da altri, non doveva egli per sé stesso comprendere che attribuendosi alla terra i movimenti che si levano l'uno al sole e l'altro al primo mobile, bisognava che fossero necessariamente fatti per il medesimo verso? Simplicio. Guardate pur di non errar voi ed il Copernico insieme. Il moto diurno del primo mobile non è egli da levante a ponente? Ed il moto anno del sole per l'eclittica non è per l'opposito da ponente a levante? Come dunque volete che i medesimi, trasferiti nella terra, di contrari divengan concordi? Sagredo, certo che il signor Simplicio ci ha scoperta l'origine dell'error di questo filosofo, e forza che esso ancora abbia fatto gli stesso discorso. Salviati, or che si può, caviamo d'errore al manco il signor Simplicio, il quale, vedendo le stelle nel nascere alzarsi sopra l'orizzonte orientale, non avrà difficoltà nell'intendere che quando tal moto non fussi delle stelle, bisognerebbe necessariamente dire che l'orizzonte con moto contrario si abbassasse, ed in conseguenza che la Terra si volgesse in se stessa al contrario di quel che ci sembrano muoversi le stelle, cioè da occidente verso oriente, che è secondo l'ordine dei segni del zodiaco. Quanto poi all'altro moto, essendo il Sole fisso nel centro del zodiaco e la Terra mobile per la circonferenza di quello, per far che il sole ci apparisca muoversi per esso zodiaco secondo l'ordine dei segni, è necessario che la terra cammini secondo il medesimo ordine, atteso che il sole ci apparisce sempre occupar nel zodiaco il grado opposto al grado nel quale si trova la terra. E così, scorrendo la terra, verbi grazia, l'ariete, il sole apparirà a scorrer la libra, e passando la terra per il segno del toro, il sole scorrerà per quello dello scorpione, la terra per i gemini, il sole per il sagittario. Ma queste muoversi per il medesimo verso amendue, cioè secondo l'ordine dei segni, come anco era la revoluzione della Terra circa il proprio centro. Simplicio. Ho inteso benissimo, né saprei qual cosa produr per sgravio d'un tanto errore. Salviati. Ma piano, signor Simplicio, che ce n'è un altro maggior di questo, ed è che fa muover la terra per il moto diurno intorno al proprio centro da oriente verso occidente, e non comprende che quando questo fosse, il movimento delle 24 ore dell'universo ci apparirebbe fatto da ponente verso levante per l'opposito giusto di quel che noi veggiamo. Simplicio. Oh! Io, che appena ho veduti i primi elementi della sfera, son sicuro che non arrei errato sì gravemente. Salviati. Giudicate ora quale studio si può stimare che abbia fatto questo oppositore nei libri del Copernico, se prende al rovescio questa principale e massima ipotesi, sopra la quale si fonda tutta la somma delle cose, nelle quali il Copernico dissente dalla dottrina d'Aristotele e di Tolomeo. Quanto poi a questo terzo moto che l'autore pur di mente del Copernico assegna al globo terrestre, non so di quale si voglia intendere. Quello non è egli sicuramente che il Copernico gli attribuisce congiuntamente con gli altri due, anno e diurno, che non ha a che fare col declinare verso austro e settentrione, ma solo serve per mantener l'asse della revoluzione diurna continuamente parallelo a se stesso. Tal che bisogna dire, o che l'oppositore non abbia compreso questo, o l'abbia dissimulato. Ma benché questo solo grave mancamento bastasse a liberarne dall'obbligo di più occuparci nella considerazione delle sue opposizioni, tuttavia voglio ritenerle in stima, siccome veramente meritano di essere apprezzate assai più che mille altre di altri vani oppositori. Tornando dunque all'istanza, dico che i due movimenti, anno e diurno, non sono altrimenti contrari, anzi, son per il medesimo verso, e però posson dipendere da un medesimo principio. Il terzo vien talmente in conseguenza dell'anno da per sé stesso e spontaneamente, che non vi bisogna chiamar principio interno né esterno, come a suo luogo dimostrerò, dal quale, come da causa, venga prodotto. Sagredo, voglio pur io ancora, scorto dal discorso naturale, dire a questo oppositore qualche cosa, il qual vuol condannare il Copernico se io non gli so puntualmente risolvere tutti i dubbi e risponder a tutte le opposizioni che egli gli fa. Quasi che in conseguenza della mia ignoranza segua necessariamente la falsità della sua dottrina. Ma se questo termine di condannare gli scrittori gli par giuridico, non dovrà parergli fuor di ragione se io non approverò Aristotele e Tolomeo quando egli non risolva meglio di me le difficoltà medesime che io li promuovo nella loro dottrina. E mi domanda quali siano i principi per i quali il globo terrestre si muove del moto anno nel zodiaco e del diurno per l'equinoziale in se stesso. Dicogli che sono una cosa simile a quelli per i quali Saturno si muove per il zodiaco in 30 anni ed in se stesso in tempo molto più breve secondo l'equinoziale, come lo scoprirsi ed ascondersi dei suoi globi collaterali ci mostra. È una cosa simile a quella per la quale ei concederebbe senza scrupolo che il sole scorresse l'eclittica in un anno ed in se stesso si rivolgesse parallelo all'equinoziale in manco d'un mese, come sensatamente mostrano le sue macchie. È una cosa simile a quella per la quale le stelle Medicee scorrono il zodiaco in 12 anni e trattanto si volgono in cerchi piccolissimi ed in tempi brevissimi intorno a Giove. Simplicio, quest'autore vi negherà tutte queste cose come inganni della vista mediante i cristalli del telescopio. Sagredo, oh, questo sarebbe un volerne troppo per sé, mentre e vuole che l'occhio semplice non si possa ingannare nel giudicare il moto retto dei gravi discendenti, e vuol che si inganni nel comprendere questi altri movimenti, mentre la sua virtù viene perfezionata ed accresciuta a 30 doppi. Diciamogli dunque che la Terra partecipa alla pluralità di movimenti in un modo simile e forse il medesimo, col quale la calamita ha il muoversi in giù come grave, e due moti circolari, uno orizzontale e l'altro verticale, sotto il meridiano. Ma che più? Ditemi, signor Simplicio, tra chi credete voi che quest'autore mettesse maggior diversità? Tra il moto retto e il circolare, o tra il moto e la quiete? Simplicio. Tra il moto e la quiete, sicuramente. E questo è manifesto, perché il moto circolare non è contrario al retto per Aristotele. Anzi, e concede che si possano mescolare, il che è impossibile del moto e della quiete. Sagredo. Adunque, proposizione meno improbabile è il porre in un corpo naturale due principi interni, uno al moto retto e l'altro al circolare, che due pur interni, uno al moto e l'altro alla quiete. Ora, della naturale inclinazione che risegga nelle parti della terra di ritornar al suo tutto quando per violenza ne vengono separate, concordano insieme amendue le posizioni, e solo dissentono nell'operazione del tutto, che questa vuole che per principio interno stia immobile, e quello gli attribuisce il moto circolare. Ma per la vostra concessione e di questo filosofo, due principi, uno al moto e l'altro alla quiete, sono incompatibili insieme, siccome incompatibili sono gli effetti. Ma non già accade questo dei due movimenti, retto e circolare, che nulla repugnanza hanno fra di loro. Salviati. Aggiungete di più che probabilissimamente può essere che il movimento che fa la parte della terra separata, mentre si riconduce al suo tutto, sia esso ancora circolare, come di già si è dichiarato, tal che per tutti i rispetti, in quanto appartiene al presente caso, la mobilità sembra più accettabile che la quiete. Ora seguite, signor Simplicio, quello che resta. Simplicio. Fortifica l'autore l'istanza con additarci un altro assurdo, cioè che gli stessi movimenti convengano a nature sommamente diverse, ma l'osservazione ci insegna le operazioni e i moti di nature diverse essere diversi, e la ragione lo conferma, perché altrimenti non avremmo ingresso per conoscere e distinguere le nature quando elle non avessero i loro moti ed operazioni che ci scorgessero alla cognizione delle sostanze. Sagredo. Io ho due o tre volte osservato nei discorsi di quest'autore che, per prova che la cosa stia nel tale e nel tal modo, e si serve del dire che in quel tal modo si accomoda alla nostra intelligenza, o che altrimenti non avremmo adito alla cognizione di questo o di quell'altro particolare, o che il criterio della filosofia si guasterebbe, quasi che la natura prima facesse il cervello agli uomini e poi disponesse le cose conforme alla capacità dei loro intelletti. Ma io stimerei più presto la natura aver fatte prima le cose a suo modo e poi fabbricati i discorsi umani abili a poter capire, ma però con fatica grande, alcuna cosa dei suoi segreti. Salviati. Io son della stessa opinione. Ma dite, signor Simplicio, quali sono queste nature diverse alle quali, contro all'osservazione ed alla ragione, il Copernico assegna moti ed operazioni medesime? Simplicio. Eccole, l'acqua e l'aria, che pur sono nature diverse dalla terra, e tutte le cose che in tali elementi si trovano, avranno ciascheduna quei tre movimenti che il Copernico finge nel globo terrestre. e segue di dimostrar geometricamente come in via del Copernico una nugola che sia sospesa in aria e che per lungo tempo ci soprastia al capo senza mutar luogo, bisogna necessariamente che l'abbia tutti tre quei movimenti che ha il globo terrestre. La dimostrazione è questa. Voi la potete leggere da per voi, che io non la saprei riferir a mente. Salviati, io non ne starò altrimenti a leggerla. Anzi, stimo superfluo ad avercela posta, perché io son sicuro che nessuno degli aderenti del moto della terra gliela negherà. Però, ammessagli la dimostrazione, parliamo dell'istanza, la qual non mi pare che abbia molta forza di concludere nulla contro alla posizione del Copernico, avvenga che niente si deroga a quei moti ed a quelle operazioni per i quali si vien in cognizione delle nature, eccetera. Rispondetemi in grazia, signor Simplicio. Quelle accidenti, ne quali alcune cose puntualissimamente convengono, ci possono alieno servire per farci conoscere le diverse nature di quelle tale cose? Simplicio. Signor no. Anzi, tutto l'opposito, perché dall'identità delle operazioni e delle accidenti non si può argomentare salvo che una identità di nature. Salviati, talché le diverse nature dell'acqua, della terra, dell'aria e delle altre cose che sono per questi elementi, voi non l'arguite da quelle operazioni nelle quali tutti questi elementi e loro annessi convengono, ma da altre operazioni. Sta così? Simplicio. Così è, in effetto. Salviati. Talché quello che lasciasse negli elementi tutti quei moti, operazioni ed altri accidenti per i quali si distinguono le loro nature, non ci priverebbe del poter venire in cognizione di esse, ancorché e rimuovesse poi quella operazione nella quale unitamente convengono, e che perciò non serve nulla per la distinzione di tale nature. Simplicio, credo che il discorso proceda benissimo. Salviati, ma che la terra, l'acqua e l'aria siano da natura egualmente costituite immobili intorno al centro, non è opinione vostra, dell'autore, di Aristotele, di Tolomeo e di tutti i loro seguaci? Simplicio, è ricevuta come verità irrefragabile. Salviati, adunque, da questa comune natural condizione di quietare intorno al centro, non si trae argomento delle diverse nature di questi elementi e cose elementari, ma conviene apprendere tal notizia da altre qualità non comuni. E però, chi levasse agli elementi solamente questa quiete comune e gli lasciasse loro tutte le altre operazioni, non impedirebbe punto la strada che ne guida alla cognizione delle loro essenze. Ma il Copernico non leva loro altro che questa comune quiete e gliela tramuta in un comunissimo moto, lasciandogli la gravità, la leggerezza, i moti in su, in giù, più tardi, più veloci, la rarità, la densità, le qualità di caldo, freddo, secco, umido, ed insomma tutte le altre cose. Adunque, un tale assurdo, qual s'immagina questo autore, non è altrimenti nella posizione copernicana. Né il convenire in una identità di moto importa più o meno che il convenire in una identità di quiete circa il diversificare o non diversificare nature. Ordite se ci è altro argomento in contrario. Simplicio. Seguita una quarta istanza presa pur da una naturale osservazione, che i corpi del medesimo genere hanno moti che convengono in genere, ovvero convengono nella quiete. ma nella posizione del Copernico, corpi che convengono in genere e tra di loro similissimi, arrebbono, in quanto al moto, una somma sconvenienza, anzi una diametrale repugnanza. Imperò che, stelle tanto tra di loro simili, nulla di meno nel moto sarebbero tanto dissimili, poiché se i pianeti andrebbero in volta perpetuamente, ma il Sole e tutte le stelle fisse perpetuamente starebbero immote. Fine della giornata seconda, parte 20.